in che cosa consiste questo patto per il clima e per il lavoro, che capisco che il gioco di parole possa essere difficile, però è diverso da quello della regione, non solo perché è un patto dal basso, cioè scritto con i contributi di tutte 76 le associazioni che hanno collaborato alla nascita e all'evoluzione della nostra rete, e in particolare con la revisione del nostro comitato tecnico e scientifico, in cui ci sono competenze le più varie, professionali, accademiche, di esperti sia per passione che per professione. Un documento appunto che si differenzia anche per il titolo, che non è Patto per il lavoro e il clima, che è il titolo che la regione ha voluto dare al proprio documento, ma è Patto per il clima e per il lavoro. Una inversione che non è un'inversione solo formale, non è solo un gioco di parole, ma è la rappresentazione di quella che sarebbe dovuta essere, secondo noi, l'impostazione di un documento in cui il lavoro è una parte integrante delle operazioni che vanno fatte all'interno della transizione ecologica, perché senza salute delle persone e del territorio non c'è lavoro. E purtroppo lo stiamo vedendo molto bene durante questa crisi sanitaria, che è il risultato, come sappiamo, anche di molte scelte ambientali sbagliate, diciamo, a livello globale e territoriale. Quindi il nostro documento, Patto per il clima e per il lavoro, chiaramente ha un'impostazione differente rispetto a quello della regione, perché prima di tutto non è un documento di un'istituzione, ma appunto di una rete di associazioni, ma vuole essere di ispirazione, speriamo, anche per la presente futura classe dirigente del nostro territorio, ma soprattutto vuole raccontare alle persone che hanno il diritto di essere informate su quali sono i veri passi che andrebbero fatti per una transizione climatica che non è nella carta, non è nelle parole, non è nelle belle intenzioni, non è in obiettivi vaghi a distanza di 50 anni, ma in strategie concrete e precise che hanno degli obiettivi anche immediati, no? Di medio e di lungo termine. Nel nostro documento l'abbiamo pubblicato su un sito, quindi al sito pattoperilclimaeillavoro.it abbiamo, diciamo, contestualizzato un po' questo documento, chiarendo appunto che si tratta di un documento dal basso, in modo da poterlo divulgare il più possibile. Si può scaricare direttamente il PDF dal sito. Abbiamo sintetizzato anche quelli che sono gli obiettivi ambientali che il nostro patto racconta, relativi alle risorse, all'uso sostenibile delle risorse, all'economia circolare, alla transizione e all'autonomia energetica, agli obiettivi per lo stop al consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, la tutela e la preservazione dell'acqua, e chiaramente legata al tema della ripubblicizzazione del servizio idrico, l'agricoltura, la zootecnia, la qualità dell'aria, la mobilità, il turismo e la salute pubblica. 10 temi, i quali ciascuno hanno sia obiettivi che strumenti precisi che vanno messi a punto perché questi obiettivi siano davvero raggiunti, che è quello che sostanzialmente manca, a nostro avviso, al documento che è stato firmato da appunto questi 51 soggetti, tra i quali però manca praticamente gran parte della società civile. Quindi quello che noi intendiamo fare è sicuramente continuare a porci come interlocutori nei confronti della regione e di tutti coloro che sono chiamati a fare scelte di responsabilità per il futuro del nostro territorio. Ma con questo documento vogliamo anche soprattutto raccontare alle persone e diffondere consapevolezza su quelle che sono appunto i passi necessari. Ovviamente anche per ragioni, diciamo, di sostenibilità ambientale non l'abbiamo stampato, ma l'abbiamo prodotto in PDF in modo che possa essere facilmente e velocemente condiviso tra le persone. Patto per il clima e per il lavoro, tutto il verde possibile, quindi quello che noi, diciamo, presentiamo anche come manifesto per la transizione ecologica delle associazioni che fanno parte di RECA, delle 76 associazioni. Se vedete che è molto lungo, 94 pagine, non spaventatevi, perché in realtà è diviso in due parti, perché ci sembrava importante anche raccontare non solo la nostra visione, ma fare un paragone che c'è nella seconda parte con quello che è il documento della regione. Per cui abbiamo, diciamo, una prima parte, è il nostro patto, la seconda parte è il patto per il lavoro e il clima della regione Emilia-Romagna, con i nostri emendamenti che erano stati proposti. Questo perché noi rivendichiamo non solo il diritto e la necessità che la società civile partecipi attivamente alle decisioni che riguardano la produzione, il lavoro, le abitudini di consumo, il consumo energetico, che è uno chiaramente dei temi più importanti, ma anche perché appunto non vogliamo che la nostra rete e le associazioni associazioni che da sempre sono attive sul territorio anche in maniera propositiva, non si è accusata insomma di non essere stata collaborativa, perché noi abbiamo veramente, lo può vedere chiaramente dal documento, anche cercato di lavorare in un'ottica di integrazione a quello che era il lavoro che la Regione aveva proposto, presentando emendamenti direttamente sul testo presentato. Purtroppo diciamo che questi emendamenti, molti non sono stati accolti, però ci sembrava importante restituire l'insieme del lavoro che è stato fatto in questi mesi dalle nostre associazioni,